si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Eccoci qua, buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati con Si può fare in diretta fino alle 10. Tra poco cominciamo con un'occhiata ai giornali di oggi, una veloce rassegna stampa che ci porterà fino al giornale radio delle 8. I nostri contatti, se volete interagire con noi, si può fare @radio24, la nostra pagina Facebook, l'account su Twitter, @ si può fare 24, il mio personale, @ Ale Maurizi. Poi naturalmente 349-238-6666. Per i vostri sms anche su WhatsApp. Più avanti, dopo il GR delle 8, apriremo il numero verde, parleremo sempre a caccia di buone pratiche laddove possibile. Parleremo dell'iniziativa che viene dal Politecnico di Milano, un software per il monitoraggio delle rotte dei migranti, un prototipo che è stato messo a punto dall'Università Politecnico di Milano e che potrebbe consentire di controllare al momento della partenza e monitorare i barconi dei trafficanti, quindi fermarli nelle acque dai porti da dove partono, quindi dalle coste anche della Libia. Insomma, uno strumento di controllo delle rotte dei migranti che potrebbe essere d'aiuto per le autorità. Una iniziativa dell'Università Politecnico di Milano, quindi doppiamente una buona notizia. Speriamo che sia utile, che serva, che si sviluppi soprattutto. Questo però dopo il GR delle 8. Come detto, adesso iniziamo con la rassegna stampa. Vai! E allora, giornali di oggi che titolano quasi tutti sull'incontro tra il premier italiano Renzi e la cancelliera tedesca Angela Merkel. Renzi-Merkel, lento disgelo, scrive il Corriere. La cancelliera ora un patto sulla Turchia, il premier dice prima le risposte dell'Unione Europea in tema proprio di migrazione, ma anche sulla questione della flessibilità sui conti. Roma e Berlino si avvicinano ma restano alcune divergenze, la Germania insiste perché venga siglato un patto sulla Turchia. Dal summit di Berlino è emersa anche la promessa della Merkel di coinvolgere Renzi nel direttorio franco-tedesco alla vigilia dei vertici europei. Roma garantisce un sostegno sui profughi, quindi l'offerta di un posto nel direttorio franco-tedesco, vedremo quanto si concretizzerà questa ipotesi che rimetterebbe un pochino l'Italia al centro dello scenario, non dico internazionale, ma quantomeno europeo. Merkel e Renzi, prove di pace sui profughi e i conti, scrive Repubblica. Il Premier, accordo sulla Turchia ma più flessibilità da parte dell'Unione. La stampa, conti pubblici, Berlino gela Roma, il governo rischia un buco di 2 miliardi se Bruxelles non dà il via libera all'aumento del deficit per migranti e sicurezza, sono anche i soldi che l'Europa e la Germania chiedono per sostenere il piano a favore dei profughi siriani in Turchia, su cui Renzi ha detto sì, vediamo sti soldi, però che siano fuori dal patto di stabilità. Poi, questi sono diciamo i titoli principali su questa notizia, il Sole 24 Ore di spalla, Renzi Merkel sui migranti e conti, passi avanti ma restano i nodi. Dalla prima pagina del Corriere anche una fotonotizia, i migranti in viaggio verso l'isola greca di Lesbo. Guerra all'ISIS in Siria, ma il regime di Assad avanza protetto dai jet di Mosca, scrive Guido Olimpio. Diplomazia al lavoro per trovare una soluzione alla crisi siriana, ma le truppe di Assad avanzano con l'appoggio di Mosca. I russi infatti hanno condotto quasi 6.000 raid, anche se gli obiettivi sono rimasti gli insorti anti-regime e non l'ISIS. E come vedete in Siria continua ad esserci una divergenza di obiettivi tra la Russia e gli altri paesi. A proposito di sforzi diplomatici e di diplomatici, scoppia per quanto riguarda l'Italia una querelle che la protesta dei diplomatici disorientati dal caso Calenda. Succede che 230 giovani diplomatici e 24 ambasciatori di grado hanno scritto due lettere al Presidente del Consiglio dopo la nomina di Carlo Calenda, già vice ministro dello sviluppo economico, rappresentante permanente dell'Italia presso l'Unione Europea, una funzione da ambasciatore, una funzione diplomatica e in altri casi in passato ricoperta da ambasciatori di carriera, questa volta occupata da un politico. Renzi ci ha mandato un politico, scrivono gli ambasciatori che protestano. Vediamo, il Corriere anticipa alcune stralci di questa lettera. Sorpresa e preoccupazione per la scelta del vice ministro allo sviluppo economico, un segnale che potrebbe precludere l'esclusione dei diplomatici di carriera dagli incarichi di maggiore responsabilità e che attesta il rischio di autorevolezza dell'amministrazione negli affari esteri. I diplomatici chiedono iniziative opportune presso la Presidenza della Repubblica, presso Mattarella, si appellano a Mattarella per un ripensamento di questa decisione per impedire il ripetersi di analoghi provvedimenti. Ora, come prendere questa protesta degli ambasciatori nei confronti di Renzi, che ha nominato un politico come ambasciatore a Bruxelles, all'Unione Europea, anziché un ambasciatore, un diplomatico di professione? Vediamo il commento di Massimo Gramellini, che scrive sulla prima della Stampa: Calenda greca, in una lettera anticipata ieri all'Huffington Post, 230 giovani diplomatici esprimono a Renzi il loro disorientamento, traduzione incazzatura, ma sono pur sempre diplomatici, per la nomina di Calenda. Il Presidente del Consiglio potrebbe liquidare la sollevazione come un rigurgito di casta. E probabilmente i sondaggi gli farebbero la ola, cioè la casta dei diplomatici che si lamenta perché non è stato scelto uno di loro per un ruolo così importante a Bruxelles. Ma d'altra parte Renzi potrebbe anche chiedersi se invece quella lettera non gli stia ricordando qualcosa che nell'impetuosa cavalcata attraverso le praterie del potere in un paese sfibrato sembra avere rimosso, e cioè che la sua avventura politica si giustifica, quella di Renzi, l'avventura politica di Renzi si giustifica in nome della meritocrazia, perché poi questo significava la fin troppo abusata epica della rottamazione, sostituire gli inamovibili, i raccomandati, gli incompetenti e qualche corrotto con i più bravi. Magari i contestatori, i diplomatici, hanno preso il caso sbagliato, perché adesso a Bruxelles serve più un politico che un diplomatico di carriera, ma Renzi dà spesso l'impressione di scegliere le persone in base all'amicizia e alla fedeltà, come i suoi predecessori, sia chiaro, puntualizza Massimo Gramellini. E questo è il caso della lettera degli ambasciatori italiani a Renzi. Allora, che altro? Andiamo su qualche altro titolo. Tutti i guai della banca che deve salvare Monte dei Paschi. Libero torna su questa questione: dalla padella alla brace. UBI, l'istituto fondato da Bazzoli, è nel mirino di quattro procure per i dirigenti, accuse di truffa, riciclaggio, associazione a delinquere, influenza illecita, il caso dei finanziamenti a società fallite e agli amici. E poi invece, per esempio, Avvenire, andiamo a vedere Avvenire. Oggi c'è il Family Day. E quindi Avvenire titola come secondo titolo sul Family Day: Roma oggi aspetta il popolo della famiglia, preparativi per la manifestazione al Circo Massimo di Roma, saremo 1 milione oggi al Circo Massimo, tutto pronto a Roma per il Family Day 2016, la grande manifestazione dell'associazionismo familiare che si propone di esprimere un forte no alla legge sulle unioni civili, scelta adulto centrica che ignora il diritto dei bambini ad avere una mamma e un papà. Una lettura diversa è quella che dà per esempio il Fatto Quotidiano, che dice unione civile Renzi e Alfano, il prezzo del nuovo centrodestra, una poltrona ogni 4 parlamentari, si riferisce al recente rimpasto di governo dove il nuovo centrodestra è avanzato e ha ottenuto nuovi posti. Il placet dei centristi infatti è fondamentale per il DDL Cirinnà, che slitta ancora. Oggi il Premier conterà la piazza del Family Day. Il nodo delle adozioni rimane sullo sfondo per non far saltare tutto, scrive ancora il Fatto Quotidiano. I vescovi benedicono il Circo Massimo, l'abbiamo appena visto nel quotidiano L'Avvenire, ma ACLI e Azione Cattolica, due importanti, diciamo, pezzi del mondo cattolico italiano, non sfileranno perché dicono c'è un clima da ultra, noi non ci stiamo. E va bene. Prima di andare sul traffico, sulla pubblicità sul traffico, una buona notizia, vai, perché ce l'abbiamo qua sulla prima della stampa, vai. And now the good news. Questa è proprio una delle classiche buone notizie che piacciono anche a noi di Si Può Fare. Questo sicuramente saranno nostri ospiti prestissimo. La app che ti fa ritrovare la bici rubata. È piccolo come un tappo di sughero, si nasconde nel manubrio e si accende quando si accorge che chi sale in sella non è il legittimo proprietario. Ne traccia il percorso e permette di acciuffarla. Si chiama Sherlock ed è un antifurto per biciclette, figlio di una startup italiana che giovedì sarà presentata, pensate, a Londra, alla Camera dei Deputati, alla Camera dei Comuni di Sua Maestà la Regina Elisabetta d'Inghilterra. Già, perché la loro è l'unica startup italiana che Set Squared, il migliore incubatore universale al mondo secondo la classifica dell'ente svedese UBI, ha selezionato tra quelle da presentare proprio al Parlamento britannico. Sherlock ha ottenuto un finanziamento europeo di 130.000 euro, dice il suo fondatore Pierluigi Freni. Tra l'altro, un nome che era una premonizione. Non siamo cervelli in fuga, semmai in movimento. Ogni giorno mi alzo, so che devo prendere un aereo. Non vogliamo abbandonare l'Italia, ma mantenere un piede qui e l'altro a Londra. Come funziona Sherlock? C'è un microchip che ha il GPS che permette di tracciare la posizione, un sensore di movimento, una SIM che comunica con una app sul telefonino ogni spostamento sospetto della propria bici. Dice Freni, antifurti del genere ce n'erano già, simili almeno in parte, ma noi non ci siamo scoraggiati, abbiamo deciso di migliorare il prodotto. Bravo! E sto giovane imprenditore italiano. Ci fermiamo per il traffico, torniamo tra un attimo. Eccoci qua di nuovo, buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati con Si Può Fare, una rassegna stampa veloce che ci porterà fino al giornale radio delle 8, sul Sole 24 Ore, per naturalmente un'apertura di taglio economico. Tokyo e il PIL americano spingono le borse, la crescita americana sotto le attese, i mercati scommettono sul rinvio dei rialzi da parte della Federal Reserve. La decisione, leggiamo, della Banca Centrale del Giappone di portare in territorio negativo il costo del denaro, quindi praticamente diventa conveniente imprestare denaro e prendere a prestito, le stime leggermente sotto le attese della crescita del PIL negli Stati Uniti nel quarto trimestre del 2015 hanno ridato carburante ai listini azionari dopo due sedute negative consecutive. Il Sole 24 Ore di oggi, che si occupa anche di questioni fiscali, tutte le novità dei modelli per le dichiarazioni 2016 dei redditi e anche i chiarimenti che arrivano dalla recente edizione di Telefisco. Sul Sole 24 Ore sono illustrate le istruzioni per la compilazione dei modelli approvati ieri dall'Agenzia delle Entrate, la certificazione unica, il 730, il 770 IVA, ma anche l'IVA 74 bis, e quindi insomma tutte le novità sulla dichiarazione dei redditi e anche i chiarimenti emersi durante il convegno annuale classico del Sole 24 Ore Telefisco, anche a proposito per esempio del regime dei minimi per quanto riguarda le partite IVA. Sempre a proposito di questioni economiche, il giornale invece scrive così. Siamo sempre su questo argomento. Fine della bugia sugli evasori. Cambia il modo di pagare le tasse. Il governo costretto a cambiare, studi di settore ridimensionati. E per i professionisti si pensa all'abolizione. Ci sono delle altre notizie. Per esempio, c'è un'altra buona notizia che è questa. Ricordate la storia di Lia, la bambina che non poteva andare a scuola perché non era vaccinata e non poteva vaccinarsi e non lo erano nemmeno i suoi compagni di scuola e rischiava di prendere delle malattie. Andare in un'altra scuola, la bimba toscana che non può vaccinarsi, per la piccola di 6 anni è stato trovato un istituto dove è minore il rischio di entrare in contatto con i coetanei non vaccinati. I problemi della bambina sono cominciati da quando aveva 2 anni. Lì si è scoperto che è diventata immunodepressa a causa di una grave malattia, una sindrome che impedisce che le impedisce di essere vaccinata. Adesso tornerà a scuola finalmente, farà amicizia con nuovi compagni, ma insomma potrà tornare a scuola, perché dopo giorni di apprensione e polemiche, scrive il Corriere, e anche di ispettori inviati dal ministro dell'istruzione Giannini nella scuola di Greve in Chianti, la piccola sarà trasferita in un'altra scuola, perché nella sua classe, che ha frequentato fino a 10 giorni fa, almeno 8 bambini su 18 non sono stati vaccinati, e dunque Lia rischiava di contrarre una malattia esantematica che per lei però poteva essere molto rischiosa. In più, su suggerimento dei medici del Meyer di Firenze, giovedì scorso la bambina è stata vaccinata contro il morbillo, parotite e rosolia, una trivalente, diciamo, somministrata in forma attenuata, scrive il Corriere, tollerabile per il sistema immunitario, ma comunque efficiente e, sostengono gli specialisti, un ottimo scudo contro eventuali complicazioni. Insomma, finisce bene, anche se travagliata, la storia della piccola Lia. Non poteva che essere così. Quindi, insomma, ricordiamoci che quando non facciamo vaccinare i nostri figli perché magari riteniamo che non sia necessario, ora questo è un caso estremo, questo di Lia, probabilmente non è un caso forse unico in Italia, ma insomma è un caso che fa riflettere, questo sì. Questa però è una buona notizia per come si è conclusa la vicenda. Restiamo in tema di salute per un'altra segnalazione che viene da Repubblica, e insomma il titolo, come spesso capita su Repubblica, è un po' allarmistico, di quelli che fanno strabuzzare gli occhi. Il titolo è questo: se la super maratona ci fa lo sgambetto, i medici parlano di rischi per il cervello. Uno dice: maratona, rischi per il cervello, oddio, che succede? Niente, non succede quasi niente, perché se andiamo a leggere l'articolo succede qualcosa, però non è quello che si può pensare. Rischi per il cervello, uno pensa viene l'ictus se vado a fare una maratona. No, assolutamente. Un gruppo di scienziati tedeschi ha testato 44 partecipanti al Trans Europe Foot Race, una corsa di 4.500 km in 64 giorni, cioè parliamo di una corsa super estrema, 70 km al giorno, una corsa che va dall'Italia alla Norvegia. Siamo, ammette Repubblica, giustamente, però siamo quasi in fondo all'articolo, intanto uno ha letto il titolo e si è spaventato. Siamo nel raggio dello sport estremo, e però estremo è l'effetto. Gli scienziati hanno registrato un restringimento della massa cerebrale pari al 6,1% nell'area deputata alla vista. Attenzione però, una sorta di atrofia dovuta in realtà a pure semplice noia, dicono i medici. Ore e giorni concentrati nello sforzo di guardare praticamente solo i propri piedi che corrono riducono gli stimoli e l'esercizio visivo. Non ci sono lesioni al cervello, attenzione, ma secondo gli scienziati ci vogliono 8 mesi perché la massa encefalica recuperi le dimensioni normali. In sostanza, correre tanto, essendo un'attività monotona, potrebbe in alcuni casi atrofizzare il cervello, ma non è una malattia, è solo una questione, diciamo, di perdita di un po' di elasticità. Ecco, se abbiamo capito bene, possiamo interpretare così questa notizia di carattere scientifico riportata sulla prima pagina di Repubblica. Cose più serie sono quelle che, ahimè, ci riporta invece il Fatto Quotidiano, sempre in prima pagina, perché c'è un'inchiesta di Ferruccio Sanza dall'Aquila. L'Aquila, il marcio e la rabbia, crollano anche i balconi. A 7 anni dal terremoto, le case del miracolo, quelle del Newtown, vi ricorderete, sono sbriciolate. Buchi nei pavimenti, muri di cartongesso che si sciolgono con la neve. Il progetto delle New Town, costruite in 4 mesi, dicevano allora trionfanti, si è rivelato catastrofico. Famiglie costrette ad abbandonare le abitazioni, palazzi ridotti in ruderi. Vediamo cosa scrive Ferruccio Sanza. Luigi osserva il quartiere che pochi mesi fa brulicava di vita. Silenzio, adesso non c'è più nessuno, come un attacco atomico. Resta questo pensionato, Luigi Bellicoso, strano nome per una persona tanto mite. È l'ultimo abitante di una delle New Town discese di Preturo, i quartieri cresciuti come funghi dopo il terremoto dell'Aquila. Ma il 2 settembre del 2015, complessi antisismici sostenibili ecocompatibili, le famose case, scritto maiuscolo, hanno preso ad andare in pezzi. Con la gente dentro, ha cominciato un balcone una mattina, un crack è andato giù, poi sono arrivati gli uomini del corpo forestale hanno scoperto che i balconi non tenevano più, erano marci. Hanno fatto altri controlli, hanno scoperto, insomma, in sostanza che le case si stavano sgretolando con la gente dentro, la gente che naturalmente adesso se ne sta andando da queste new town. È una notizia terribile a 7 anni dal terremoto dell'Aquila. Allora, un'altra segnalazione è: se ne faranno una ragione i fiorentini, ma la famosa statua di Jeff Koons, l'ex marito di Cicciolina, Pluto e Proserpina, la statua d'acciaio inox color oro che campeggiava in Piazza della Signoria, non ci sarà più, se ne andrà, lascerà Firenze. Gelo ed è divorzio tra Jeff Koons e Firenze, perché o Piazza della Signoria o nulla, o il posto più ambito di tutti tra il Davide e il Nettuno sull'arengario di Piazza di Palazzo Vecchio, oppure niente da fare. Così, siccome il sindaco Nanni Nardella ha detto di no, tra Firenze e Jeff Koons è finito il love affair artistico più diffuso degli ultimi mesi. Ieri l'artista contemporaneo più pagato del mondo ha annunciato l'intenzione di riprendersi la sua statua Pluto e Proserpina, un gigante di 3 metri in acciaio inox cromato che da ottobre era stato esposto all'ombra di Palazzo Vecchio tra le polemiche, finché lo scorso 21 gennaio a fine mostra una gru non l'ha rimosso per spostarlo in un deposito in attesa di una nuova collocazione. Siccome questa nuova collocazione in città non piace a Jeff Koons, che voleva rimanere lì in Piazza della Signoria, ma lì in Piazza della Signoria Firenze ospita ogni volta una statua di arte contemporanea diversa, allora Jeff Koons, il più grande artista, più pagato artista contemporaneo, se ne va snobbando Firenze. Ma credo che Firenze se ne farà tranquillissimamente una ragione, credo. Ci fermiamo, ci risentiamo dopo il GR, dopo... Si può fare. Cronache da un paese migliore. Uptown funk you up. Uptown funk you up. 'Cause uptown funk don't give it to you. 'Cause uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. Eccoci qua, buongiorno a tutti cari ascoltatori, da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno e buon sabato a tutti. Quando sono le 8 e 18 minuti di sabato mattina, 800 24 00 24, vi aspettiamo per stare insieme a noi questa mattina fino alle 10. Milano, Monterosa... È un periodo in cui la mattina non si capisce molto, poi di solito viene fuori il sole, anche perché l'ultima volta che ha piovuto a Milano credo che fosse il 1986, giusto? Sì, sono quasi 30 anni. Siamo di nuovo all'emergenza smog. Non possiamo farne senza, ci mancherebbe. E come sempre, se posso dire, come sempre, sì. Fa un po'... arrabbiare continuare a chiamarla emergenza, lo sappiamo da quanto. Ho Alessio, direi da sempre la stessa cosa quando ho sentito stamattina dire il ministro per l'ambiente Galletti ha convocato i presidenti delle regioni, i sindaci per fare il punto sull'emergenza smog. Basta, che sarebbe come dire emergenza inverno, che sì, uno dice è incredibile, è gennaio, fa freddo, appunto ho detto fa caldo perché il vero problema è che essendo cambiato il clima non si capisce più niente. Noi più tardi andremo a Tallinn, che è l'unica città europea grossa, non l'unica, l'unica diciamo capitale che ha applicato quello che ha proposto Francesca Balzani, candidata a sindaco, candidata alle primarie, sindaco a Milano, mezzi pubblici in superficie gratis, proprio per aiutare, favorire l'andamento dei mezzi pubblici, quindi diciamo la rinuncia alle auto private, che è un vecchio sogno tra l'altro, perché a Milano dice... se ne parla sicuramente da quando sono nato, si prova sempre, si dice perché non lo si fa gratuito. Uno dice costerebbe troppo, però sappiate che Tallinn ha appena ricevuto un premio internazionale proprio perché questa pratica dei mezzi pubblici gratis sembrerebbe avere contribuito alla diminuzione proprio delle emissioni e delle polveri nella capitale dell'Estonia. Bene. Poi qua si apre come sempre il solito discorso, che qualcuno dice sì, però allora bisognerebbe avere i mezzi pubblici tutti ecologici, perché sennò uno dice costano meno, però se tanto inquinano i mezzi pubblici. Allora andiamo, cominciamo, 800 24 00 24, perché la prima storia di cui vi parliamo invece è una buona notizia, un'invenzione, una buona pratica che viene dal Politecnico di Milano e che riguarda il tema sempre centrale dei migranti. Vai. Con questa Immigrant Song dei Led Zeppelin, una scelta vintage. Vi ricordo che tutte le nostre proposte musicali poi le ritrovate sul sito di Radio 24, la pagina di Si Può Fare, cioè la nostra playlist di ogni puntata. Parliamo di immigrazione, come detto, perché insomma le continue sospensioni di Schengen a varie frontiere europee, ma anche le espulsioni degli immigrati irregolari, che sono sempre più difficili, ci sono dei dati recentemente che lo dimostrano, riaprono la questione dei controlli degli arrivi via mare soprattutto, perché da un lato è sempre possibile aprire, come auspicano le associazioni umanitarie, dei corridoi umanitari per i profughi, dall'altro però è doveroso mettere nel mirino i trafficanti di uomini nel mare. Arriva una proposta, una software per il monitoraggio delle rotte, lo ha messo a punto il Politecnico di Milano, e con noi Francesco Topputo, docente. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno professore. Professore. Buongiorno. Del Politecnico di Milano, capofila del progetto, spero di pronunciare bene in inglese, Space Shepherd. Esatto. Ho detto bene? Sì, benissimo. Perché è sabato mattina, sentiamo professore e ci mettiamo subito nel mood, sì, scuola, che abbiamo paura di essere interrogati. In più Francesco Topputo ha appena twittato, per chi fosse interessato, un'immagine di quello che andremo di cui andremo a parlare, che già è complicatissimo, che ci sono satelliti, righe, grafici, ho paurissima. Cosa vuol dire intanto Space Shepherd? Beh, diciamo è il pastore spaziale, nel senso è un sistema che si prende cura dei migranti che sono in atto, diciamo, per attraversare il Mediterraneo. Mm-hmm. Noi abbiamo studiato il fenomeno, questo progetto nasce, diciamo, diversi anni fa, quindi è stato proposto e finanziato nel 2014, e abbiamo studiato il fenomeno che avviene tra le coste a nord della Libia e quelle della Sicilia, quindi quello che avviene nel canale di Sicilia non tiene conto di quello che è avvenuto, diciamo, nel 2015 nel Mar Egeo, cioè le partenze dalla Siria passando per la Turchia e per la Grecia, quindi siamo sul fronte, diciamo, Italia-Libia, quindi il canale, diciamo, di Sicilia sul fronte mare aperto, perché di là non si può parlare, diciamo, di traversate, okay, che durano tre giorni come quelle diciamo degli arrivi in Sicilia. E analizzando questi dati, di che cosa vi siete accorti? Che cosa avete scoperto e che tipo di software state cercando di mettere a punto? Dunque, intanto mi piace ricordare in pochissimi secondi che il progetto è stato finanziato da uno schema del Politecnico di Milano che si chiama Polisocial Award. Non tutti sanno che adesso le università sono anche recettrici delle donazioni del 5 per 1000. Giusto. Così lo è, sì. Il Politecnico di Milano può, diciamo, essere uno dei recettori delle donazioni, e al Politecnico si organizza questo bando interno, si chiama Polisocial, dove viene chiesto ai ricercatori e ai professori di proporre dei temi di ricerca con finalità sociali. Per una volta, insomma, l'amaro calice del fisco può essere devoluto, esatto, a dei progetti, esatto, scientifici. E fa benissimo a ricordarlo, soprattutto perché noi spesso parliamo di bandi di concorso, e probabilmente abbiamo parlato anche di questo bando, però poi spesso non si viene a sapere che cosa succede. Invece questo, ecco che cosa succede. Questi sono i bandi, qualcuno vince il bando, questo è un progetto che ha vinto un bando e che grazie alla vittoria in questo bando ha potuto progredire, giusto? Esattamente, nel 2014 mi sono fatto capofila, diciamo, di un team composto da 8 persone con competenze diciamo abbastanza complementari in questo campo. Abbiamo avuto questa idea, l'abbiamo proposta, abbiamo detto proviamo a vedere cosa succede se io sono un ingegnere aerospaziale, quindi mi occupo di satelliti. Mm-hmm. Abbiamo tanti satelliti in questo momento in orbita che volano, diciamo, a centinaia di chilometri di altezza e che sono equipaggiati di sensori utilizzati per diversi scopi scientifici, monitoraggio ad esempio dei ghiacci, delle città, crescita, diciamo, CO2, emissioni, eccetera. Anche delle persone, così se posso buttarci dentro un po' di complottismo gratuito. Sì, esatto, però ecco, il focus qui è sui satelliti scientifici e eventualmente sui satelliti commerciali che vendono le immagini come, diciamo, come servizio della loro attività commerciale. Abbiamo detto proviamo a vedere, questi sensori prendono delle immagini, ma visto che, diciamo, l'asset spaziale esiste già, è in funzione ed è già in opera, perché viene appunto funzionante su base regolare. Proviamo a vedere se come sottoprodotto della loro attività scientifica riusciamo a monitorare il Mediterraneo su base regolare, perché se così fosse potremmo avere un sicuramente accrescimento di quella che è la conoscenza di quello che accade nel Mediterraneo, sì, in ogni momento, perché le tragedie succedono perché noi non sappiamo che in un determinato punto del mare c'è un barcone in avaria, ad esempio. Mm-hmm. E ovviamente il sistema non si pone lo scopo di risolvere il problema della ricerca in situ e del salvataggio, perché ovviamente questo lasciamolo fare ad altri, alla Marina, agli Stati, eccetera, ma insomma, di monitorare, se abbiamo ben capito, tutto quello che succede nel mare e di, come dire, cogliere le differenze, se ho ben capito, tra quelle che sono le imbarcazioni regolari che mandano eventualmente anche dei segnali, navi da crociera, navi commerciali, esatto, eccetera, eccetera, con quelle che sono le navi clandestine, le navi dei clandestini. Esatto. Quelle, diciamo, non autorizzate, chiamiamole così, esatto. C'è un sistema automatico che si chiama AIS, Automated Identification System, per il quale le barche, diciamo, autorizzate devono di tanto in tanto trasmettere la propria posizione. Le faccio subito una domanda che potrebbe stroncare subito ogni entusiasmo. Funziona questo sistema? Allora, questo AIS dice o è Space Shepherd? Il sistema di monitoraggio, diciamo, delle navi clandestine. Allora, noi, come dicevo, abbiamo vinto un bando, abbiamo progettato il sistema lavorandoci un anno e mezzo, 8 persone. Il tutto era, diciamo, uno studio di fattibilità. Abbiamo trovato che il sistema funziona, perché abbiamo lavorato su immagini satellitari vere, però sì, non prese in tempo reale, perché questo, diciamo, qui si potrebbe aprire un'altra parentesi. Riusciamo ad incrementare quella che è la consapevolezza di quello che sta accadendo nel Mediterraneo, Maritime Situational Awareness, questo è il termine che si usa per questo termine di informazioni. Abbiamo anche dei buoni tempi di risposta, mm-hmm, e più che altro si evita di mandare, diciamo, i pattugliatori, consentitemi il termine, a zonzo nel Mediterraneo, avendo un risparmio considerevole in termini di... Cioè, si mandano dove è necessario. Se abbiamo ben capito, il sistema potenzialmente funziona, però avreste bisogno di accedere alle fonti di prima mano, cioè a questi satelliti. Questo è, diciamo, l'aspetto sul quale stiamo lavorando in questo momento, perché concluso il progetto di fattibilità abbiamo visto che il sistema, diciamo, consentitemi, si può fare, ecco. Si può fare, perfetto. Ci piace ovviamente molto. Esatto. Ma le posso fare una domanda che può essere, anzi sicuramente è stupida, perché a me questa sembra una buona notizia, ma nella mia ignoranza io ho sempre pensato che tutto ciò già avvenisse, cioè forse perché siamo abituati a vederlo nei film, pensavo che appena una nave fosse in mare in avvicinamento alle coste suonasse un beep, ci fosse un segnetto nei film su un radar, gli spie americani succede, esatto, così, e noi vedessimo chiaramente che sta arrivando, e invece mi sembra di capire che non è affatto così, cioè no, che senza questo sistema che avete inventato voi, noi finché non la vediamo occhio nudo una barca non sappiamo che sta arrivando in questo momento? No, dunque sulle coste esistono dei radar di terra che hanno, diciamo, un raggio di scoperta di un centinaio di chilometri, poi a seconda delle condizioni meteorologiche e dell'altezza sul quale è montato il radar, sulla potenza del suo sensore, eccetera, se sono, diciamo, in un raggio di... diciamo 80-100 chilometri da questo radar, ovviamente tutto ciò che viene visto viene illuminato e quindi viene scoperto. Qui però parliamo di mare aperto, perché queste traversate durano anche 5 giorni, possono durare, con barche in avaria. In mare aperto, utilizzando strumenti di terra per questioni geografiche, perché non posso andare a guardare oltre l'orizzonte, certo, per questioni proprio geometriche direi, non si riesce a guardare quello che accade in mare aperto subito dopo le acque della Libia. Giusto, apprezzo molto che me lo stia spiegando in maniera semplice, cioè oltre l'orizzonte con qualcosa che sta a terra non si può vedere. Esatto. Però allora chiedo un'altra cosa, come mai ci sono tutte queste resistenze? Cioè come mai non vi lasciano usare questi satelliti? Come se qualcuno non volesse che si controllasse? No, in realtà non è allora, questo penso che, cioè, questo è un aspetto, diciamo, politico, e quindi io non ho titoli per esprimermi, però noi abbiamo presentato il progetto all'Agenzia Spaziale Italiana, alla Marina Militare, al Centro Operativo della Marina Militare, che è l'ente, diciamo, preposto per la sorveglianza e per il coordinamento delle operazioni nel Mediterraneo, E adesso siamo, stiamo parlando con l'Agenzia Spaziale Europea, che è stata informata di questo progetto, e stiamo cercando di sensibilizzarli sotto questo punto di vista. Il problema è una montagna, perché la nostra ipotesi di lavoro era quella per cui i satelliti gestiti dalle agenzie spaziali nazionali fornissero su base regolare dei dati al nostro sistema. Ecco, questo è un'ipotesi impossibile. Dal punto di vista accademico, una montagna funziona in mezzo al mare, insomma. Ecco, dal punto di vista del mondo reale, ci vorrebbero degli accordi per il reciproco scambio dei dati non banali, che in questo momento non ci sono. Quindi ci vorrebbe, dal mio modestissimo punto di vista, una regia, ovviamente, dall'alto, quindi il problema diventa dominio europeo, lo è già ovviamente, però anche l'imposizione di questo reciproco scambio di dati, perché, come dicevo, lo studio dimostra che l'idea si può fare. Potenzialmente funziona. Noi rilanciamo, professor Topputo, questa vostra iniziativa, che qualcuno dall'alto vi senta e che possa raccogliere un po' questa idea di questo progetto Space Shepherd e rilanciarlo, finanziarlo e provarci. Le voglio chiedere anche un'altra cosa. Visto con gli occhi dello scienziato, quale lei è, un ingegnere, se ho ben capito, aerospaziale, che quindi non si occupa di flussi migratori, però questo fenomeno della migrazione a quale altro processo naturale o scientifico può assomigliare? A colabrodo, come faccio una battuta, o a qualche altro flusso, a qualche altro grande movimento naturale, osservabile in natura? Beh, esistono sicuramente delle pressioni nei paesi centroafricani, tale per cui a fronte di queste pressioni, che possono essere povertà, guerra, impulso per migliorare le proprie condizioni di vita che producono questi flussi. Io non ho titoli per parlare, ma penso che siano dei flussi, il movimento di grandi masse di uomini, di animali in generale, sia sempre esistito, lo osserviamo in natura, e penso che sia anche un fenomeno naturale all'interno degli esseri umani. Quindi è un fenomeno che sta alle regole della natura, e noi è come se fosse lo scorrere di un fiume, del quale voi vi occupate di come poter convogliare le acque e non tanto di arginarlo, come invece qualcuno dal punto di vista politico vorrebbe. Noi dal punto di vista politico non prendiamo nessuna posizione, anche perché non è nostro compito farlo. Noi vorremmo, però mi scusi, potenzialmente, se il sistema funzionasse, consentirebbe di intervenire in acque internazionali, ma quindi prima che i barconi arrivino lungo le nostre coste, e in alcuni casi anche lungo le coste libiche, per esempio, perché sì. Noi abbiamo pensato anche uno dei modi operativi del sistema sarebbe quello di andare a guardare con dei satelliti ottici che fanno delle foto ad alta risoluzione, quello che accade in prossimità dei punti dove si sa che le persone si imbarcano, perché questo se c'è un assembramento di un numero considerevole di persone, è ragionevole che prima o poi ci sarà una partenza da quel punto. Sì, forse quindi, questo diventa un po' complicato, nel senso che forse anche quello stato lì dice: questi mi stanno guardando con un satellite, cioè si entra un po' in una questione diplomatica, mi sembra di capire. Poi va bene, nel campo dell'intelligence questo si fa, però noi non lo sappiamo. No, giustamente ne rimanete fuori. Sì, e giustamente lei dice, nel momento che è una questione politica, non è una questione che attiene a voi. Lo dico quasi più io, mi sembra di capire che sarebbe meglio, più che togliere Schengen, aggiungere a Schengen che comprenda anche lo scambio di dati fra stati membri, per esempio dei loro satelliti. Aggiungere Shepherd. Esatto. Esatto. Va bene, insomma, noi ci abbiamo messo del nostro, speriamo che qualcuno ci abbia ascoltato. Intanto vi ringraziamo per questo lavoro che state facendo. Grazie, professor Topputo. Grazie mille. Grazie e buona giornata. Buona giornata. E questo, insomma, è il Politecnico di Milano, che è sul pezzo, ci prova. E poi, come dicevamo prima, è bello vedere che questi bandi di concorso di cui spesso parliamo poi in realtà portano a delle cose concrete, a dei risultati, a dei progetti, a delle questioni che ci toccano tutti. 800 24 00 24, tra poco, cari amici, parliamo di un altro caso, quello dei vigili in affitto a Bologna, tra poco. si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo, buongiorno cari ascoltatori, da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno. Siamo partiti dalla iniziativa, dal progetto Space Shepherd del Politecnico di Milano, che dice, insomma, già che sui satelliti ci sono sensori che misurano un po' tutto, dallo scioglimento dei ghiacci ai movimenti dei presidenti, perché non utilizzarli per monitorare quello che succede nei mari, insomma, il traffico dei barconi di clandestini. Silvano da Vicenza, l'800 24 00 24, buongiorno e benvenuto. Su cosa voleva intervenire, buongiorno, Silvano? A questo proposito dei satelliti, sì. Monitorare il Mar Mediterraneo con un satellite che vede una certa area, non vede chissà quanto, e poi passa ogni tot minuti, no? Sarebbe meglio monitorare le piste sul deserto, da dove arrivano, dal Niger, dal Chad, dal Sudan, quelle piste dove passano con camion e autobus carichi, e poi gli autisti torneranno indietro a prenderne altri, diciamo autisti, negri aerei, diciamo, come erano una volta quelli che portavano via gli schiavi in America. Però forse è un po' difficile per noi. Forse il mare è più facile, perché c'è meno movimento. No, soprattutto in un territorio che non è di nessuno, nel senso che non possiamo, credo, controllare con dei nostri satelliti le piste nel deserto degli altri. Il deserto del Sahara è immenso. Sì, è immenso. Certo. Le piste sono proprio pochissime. È come osservare le telecamere che guardano un'autostrada, per dire, passano le macchine di lì. No, no, ma questo è chiaro. Mi chiedevo, credo che non abbiamo l'autorizzazione noi per monitorare le piste del deserto di un altro paese. Dovremmo chiedere al professor Topputo, la proponiamo per uno stage all'interno del progetto. Il discorso, come dire, del satellite può essere valido, ma ci sono anche i droni. Sono i droni, possono eliminare camion o mezzi che vengono usati per trasportare persone, non quando sono carichi, quando sono vuoti, che c'è solo l'autista. Va bene, Silvano, accogliamo il suo emendamento, diciamo così, al progetto Space Shepherd del Politecnico di Milano. Ma si dice così? Shepherd, sì. Perché qualcuno all'SMS dice che devo dire Shepherd. Ti risulta? Sbaglio sempre l'inglese, ma c'è la Shepherd. No, vabbè. Però il professor Topputo ha detto che avevo detto perfetto. Gabriele Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Volevo intervenire sul fatto degli autobus gratis in città. Sì. Dunque, a Reggio Emilia l'azienda alcuni anni fa ha fatto uno studio che, abolendo tutti gli strumenti di controllo, controllori, il montaggio e manutenzione delle orbite elettrici, sì, tutto, si spende la stessa cifra che fa girare i cittadini gratis. Ah. Città di dimensione di Parma, Modena, Reggio Emilia, è uno studio stato fatto in azienda, poi messo nel cassetto. Cioè lei in azienda, dice l'azienda dei trasporti locali di Reggio Emilia. Esatto, fece uno studio interno. Interessante. Perché non ce lo gira? Abolendo il montaggio, sì, la manutenzione, che è bestiale, le mandiamo in Svezia le macchine a fare riparare. Le obliteratrici? Sì, quando si rompono vanno mandate in Svezia. Questo parlo di alcuni anni fa e non so se è cambiato adesso. Affittando le biglietterie, non stampando più i biglietti, togliendo le 20 persone che girano intorno ai controlli, e via discorrendo, si spende la stessa cifra che si ricava dalla vendita dei biglietti. Però si dà anche meno lavoro, giusto? Si dà più lavoro, quelle persone lì vanno fatte guidare. Dove in che senso? In ufficio ci sono centinaia di persone, a guidare ne mancano 30. Ma però se vanno messe a guidare, quel costo lì rimane, io però non incasso i biglietti e non so come pagarle. Non rimane il costo, siamo sotto organico, guardi, lo studio era perfetto, solo che nel cassetto poi sono subentrate delle unificazioni tra varie aziende. È interessante tutto questo studio, Gabriele, perché non lo posta sulla pagina Si può fare su Facebook, così lo possono vedere tutti. Tutti i sindaci soprattutto, di altre città. Ma se tu dici si perderebbe qualche posto di lavoro in Svezia, forse, perché se le mandano in Svezia. Condivido assolutamente, nel senso che se tutti i soldi che entrano sono gli stessi soldi che si spendono per il controllo, è evidente. A occhio mi sembra un po' sovrastimata questa spesa per le macchinette obliteratrici, perché dobbiamo aggiungere che l'assessore all'ambiente Maran di Milano ha criticato la proposta del candidato sindaco Balzani, dicendo si perdono un sacco di soldi. soldi, perché da quegli introiti di biglietti arrivano tanti tanti soldini, quindi questo sembrerebbe come dire non in grado di compensare quello che si guadagnerebbe in termini di, anche perché in realtà al comune di Milano i soldi dei biglietti, se non erro, vanno al comune e il comune paga il servizio all'ATM, quindi al comune se gli togli i soldi non ha entrata, ha solamente l'uscita che deve pagare il servizio. Hai studiato, si vede. 800 24 00 24, traffico, torniamo tra un attimo. Si può fare, cronache da un paese migliore. Tramutano, non vede, ne ho già prese sei, mi vuole rovinare lei. Per pagarle lavorerò sei mesi in più, lavorerò sei mesi in più. Vigile, non è un lavoro facile, questo non giustifica la sua arroganza stupida. E chiuda un occhio, se no... Scherzo. Vigile, vigile, ma vigile, vigile. Vabbè, questa era facile, eh? Assessore Malagoli, assessore alla sicurezza del Comune di Bologna, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, buon sabato. Buongiorno, grazie. Vigile di Biagio Antonacci, che tra l'altro è un vostro conterraneo, delle vostre parti più o meno. Esattamente. Vigili a pagamento, perché insomma se in una città del nord hanno deciso da qualche giorno, credo, di ricorrere a delle guardie private per controllare le strade di notte, a Bologna evidentemente avete forse un forze, diciamo, risorse umane superiori, avete deciso di affittare in qualche modo ai privati i vigili urbani municipali per eventi, concerti, riprese cinematografiche. Il controllo stradale sarà pagato dai privati. Allora, molti si dicono, ma un modo per fare cassa da parte del comune, oppure un modo per offrire un servizio senza invece gravare sulle finanze municipali? Assessore, intanto cosa prevede la decisione che avete preso? Ma la decisione è molto semplice, è stata presa anche da altre città importanti come Torino ad esempio. È chiaro che si tratta di servizi supplementari che vengono fatti in modo straordinario dal Corpo di Polizia Municipale. Fino ad oggi erano servizi che erano dati gratuitamente. Abbiamo pensato che questi servizi straordinari, comunque, che pesano anche sulle casse della municipalità, dovessero essere in un qualche modo riconosciuti da chi organizza questi eventi, che ricordo sono eventi importanti, ma sono anche eventi che fanno dei grandi incassi. Insomma. Facciamo qualche esempio per capire di cosa stiamo parlando? Ma i tre concerti di Vasco Rossi con tutto lo stadio dall'ara pieno, non credo che abbiano incassato poco e non si potessero permettere di pagare un servizio importante quei giorni. Il corpo della Polizia Municipale è stato impegnato tantissimo per assicurare l'arrivo regolare e il deflusso di centinaia di migliaia di persone e non mi pare che i prezzi dei concerti fossero bassi, insomma, no? Quindi, poi voi dite anche cose tipo riprese televisive, cioè un altro, diciamo, evento che porta... Che impegna per molti giorni e molte settimane anche il corpo della Polizia Municipale. E che a chi li fa porta del grano, invece a voi porta delle grane. Senta, esatto. Però la domanda che voglio fare è questa, ma il servizio di controllo stradale a quel punto lì diventa facoltativo o resta obbligatorio? Cioè se io voglio fare delle riprese cinematografiche, poi... No, resta da parte nostra il normale servizio che facciamo tutti i giorni, resta quello che è. Se si chiedono delle forze in più, perché chiaramente si prevede di dover fermare un'area nel caso di riprese cinematografiche o aiutare nell'arrivo e nel deflusso delle persone allo stadio, è chiaro che questo comporta un maggiore servizio. Ma, e quindi è a richiesta, diciamo, dell'organizzatore dell'evento. È a richiesta dell'organizzazione dell'evento. Però scusi, allora io organizzo un evento, non voglio spendere per questi controlli extra e non vi chiedo i vigili in affitto. Beh, questo sarà motivo di confronto con gli organizzatori, perché comunque gli organizzatori devono avere degli accordi con l'amministrazione. Se arrivano 30.000 persone allo stadio, non è che non lo sappiamo, insomma, no? Sì. E quindi cosa farete? Ci sarà una moral suasion da parte del comune? No, concorderemo semplicemente con loro i servizi che vengono richiesti. Ma io essere una domanda fatta al corpo della polizia municipale che dirà quali sono i servizi per la sicurezza di quell'evento. Certo, ma la cosa che io mi chiedevo, nel senso che leggevo l'articolo e giustamente leggevano, dice, ci sono talmente tanti eventi a Bologna che il corpo dei vigili dice noi non ce la facciamo a seguirli tutti, e soprattutto è una spesa. Però quello che mi chiedo, nel momento che c'è un evento in una città, questo evento porta anche soldi a questa città, cioè il concerto di Vasco Rossi porta persone a Bologna, che pagheranno anche il parcheggio, qualcuno prenderà la multa, mangeranno dei panini e poi tutto questo tornerà in tasse al comune. Quindi l'indotto. Quello che mi chiedo, l'indotto appunto, tutto questo non dovrebbe pagare anche i vigili? Perché se ogni servizio, perché noi già lo paghiamo con le tasse, se poi ogni servizio è un costo aggiuntivo, mi chiedevo se fosse giusto. Ma guardi, io non credo che questo sia un grosso problema, nel senso che appunto questi eventi muovono una quantità tale di denaro che stiamo parlando di poche migliaia di euro e forse ingigantiamo il problema, invece appunto perché ce ne sono tanti l'amministrazione comunale, queste poche migliaia di euro di evento cominciano a diventare alcune centinaia di migliaia di euro durante l'anno, quindi in parte questi soldi comunque non servono a fare cassa, questi soldi verranno calcolati in base al costo del personale che viene pagato in straordinario dall'amministrazione comunale e in parte per banalmente il pagamento della benzina, delle auto, cioè non viene niente nelle casse comunali. No, ma io non è che mi chiedevo se stesse facendo cassa, mi chiedevo se fosse giusto, perché lei fa l'esempio con Vasco Rossi e quindi dice pagare 3.000 euro, adesso non so, sto dicendo delle cifre a caso, per i vigili non è oneroso, però magari invece per dei ragazzi che decidono di fare un concerto in piazza o un evento teatrale in un altro luogo pubblico, a quel punto 3.000 euro diventa un problema. No, per gli eventi teatrali non c'è la necessità di avere un grande dispiegamento di forze, sono i grandi eventi quelli che impattano. Carlo si sta preoccupando per gli ultimi, per quelli che hanno meno incassi. Senta, però avete scoperchiato il vaso di Pandora con questa idea qua, che c'è anche in altre città, ma probabilmente prenderà piede anche dopo di voi, che siete comunque una grande capitale, una grande città, anche altrove. Ma il grande nodo, la madre di tutti gli eventi, è la partita di calcio. Vi è stato già chiesto, pagheranno anche le squadre di calcio? Perché questo è fondamentale, eh? Allora, guardi, a Torino pagano anche le squadre di calcio. A Bologna, in questo momento, noi abbiamo una situazione con una società che sta proponendo all'amministrazione comunale un grande investimento sulla ristrutturazione dello stadio. Credo che questo possa entrare in un accordo complessivo su questa grande ristrutturazione, perché stanno proponendo di rifare lo stadio Dall'Ara con risorse proprie e quindi credo che ci sia una condizione diversa, insomma, di dialogo, no? Quindi siete ottimisti che possa, ma dipenderà dall'accordo, quindi tra il comune e la società, che riguarda anche lo stadio, eccetera, eccetera. Va bene, perché insomma sappiamo che nel calcio gira tanta grana e quindi meno grane per voi. Va bene. Girano anche tanti problemi, come abbiamo visto negli ultimi giorni. Noi abbiamo raccolto questa notizia con interesse perché in effetti è da tempo che si parla, diciamo, di affidare ai privati i costi per la sicurezza. In questo caso parliamo del controllo stradale, ma il discorso potrebbe essere esteso forse anche alla sicurezza tout court in caso di grandi eventi. Bologna ci prova. Grazie assessore Riccardo Malagoli, buon sabato, grazie per essere stato con noi. Grazie. Arrivederci, buona giornata. Arrivederci. Allora, 800 24 00 24, cari ascoltatori, cosa ne pensate? Una tassa occulta, anche questa, un modo per far cassa, oppure un modo per offrire un servizio in più senza gravare sui bilanci, spesso già precari, dei municipi italiani. Paolo da Rovereto, buongiorno intanto. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Su cosa voleva intervenire Paolo? Allora, io vorrei intervenire sull'intervento precedente a questo riguardo al trasporto pubblico senza biglietto. Non chiamiamolo gratuito perché è fuorviante. Sì, no, in realtà ne parleremo, non ne abbiamo ancora parlato, lo annuncio agli ascoltatori, ne parleremo dopo il GR delle 9 perché andremo alle 9.15, alle 9.20, andremo a Tallinn, l'unica città capitale europea dove questa cosa già si fa, mezzi gratis, mezzi pubblici di superficie, dopo che è stata proposta a Milano dalla Balzani. Vai, dal 1 gennaio del 2013 Tallinn è la prima capitale mondiale a fare trasporto pubblico gratuito. Io sono il referente italiano del gruppo internazionale di studio, in cui c'è la città di Tallinn appunto, che studia da anni questo metodo di utilizzo del trasporto pubblico. Quindi abbiamo un ospite, diciamo, autorevole anche. Nel caso la richiamiamo appena dopo l'intervista su Tallinn. Prego. C'è un video fatto dalla città di Tallinn in cui sono intervistato anch'io sui dati di bilancio. I dati di bilancio di tutte le aziende mondiali, che se ne dica, indicano percentuali ridicole della raccolta di fondi tramite la bigliettazione. In Italia ragionevolmente possiamo pensare da un 5 al 7% del costo totale. Ma quando dice bigliettazione intende anche gli abbonamenti o solo i biglietti? Tutto. Tutto. Gli unici che riescono ad avere un po' più di soldi dai biglietti sono i treni ad alta velocità, ma semplicemente perché il pubblico gli ha pagato le infrastrutture. E poi sappiamo che è un'altra cosa. Quindi insomma i motivi per farlo ci sono. Il trasporto pubblico locale, cioè quello urbano, su 100 milioni di tale dati fatti dalla cittadinanza, dai 4 ai 5 milioni vengono recuperati tramite biglietti, cioè praticamente nulla. Questo perché? Perché è strutturalmente impossibile gestire tramite la bigliettazione. Paolo, dobbiamo fermarci perché c'è il giornale radio, c'è la pubblicità, c'è il giornale radio. Resta con noi, ti richiamiamo perché così magari chiudiamo questa telefonata con il referente italiano del gruppo internazionale sui trasporti gratis. Perfetto. A dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, buongiorno di nuovo da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. E da Carlo Gabardini, buongiorno e buon sabato a tutti. 800 24 00 24, si può fare sempre a caccia di buone notizie, di buone pratiche. Quando possibile ripercorriamo un po' la cronaca della settimana, questo lo facciamo soprattutto nella puntata della domenica. E poi all'800 24 00 24 aspettiamo e accettiamo tutti i vostri interventi, tutti i vostri commenti. Avevamo in linea lo ritroviamo, Paolo da Rovereto, di nuovo buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Sì, abbiamo capito bene, il referente italiano di una rete internazionale che diciamo studia e propone la misura dei mezzi pubblici di trasporto gratis che già avviene in alcune città, ne parleremo tra poco. Per quanto riguarda Tallinn, Paolo ci stava dicendo come i costi che derivano dai biglietti in genere incidono poco sul funzionamento. Incidono molto poco. Ma se incidono così poco, scusa se ti faccio questa domanda, certo. A cosa serve eliminare allora questi costi? Incentiva l'uso di più persone dei mezzi? Non siamo noi ad averlo scoperto, ma a Pechino, quando c'è stato c'è stato le Olimpiadi, avevano reso il trasporto pubblico locale completamente gratuito. Hanno avuto un tale afflusso di gente, di persone ad utilizzarlo, che hanno dovuto rimettere il biglietto per limitare il numero delle persone ad utilizzarlo. Però perché non riuscivano a gestirlo. Aspettate. Il biglietto serve per limitare il numero di persone. È un blocco. Però c'erano le Olimpiadi, Paolo, era un momento particolare. Ma questo, nei momenti di crisi si comprendono le situazioni. Sì. Nei momenti di normalità, invece, non ci se ne accorge. Mm-hmm. E se noi facciamo viaggiare un autobus vuoto, completamente vuoto, è un costo per la collettività pauroso. Questo è vero, lo penso anch'io tutte le volte che vedo un autobus vuoto e purtroppo capita abbastanza spesso. Allora, come facciamo a riempire l'autobus? la prima cosa che mi viene in mente prendiamo è... della gente a caso per strada e ce li spingiamo. Ma no, ma ecco, allora se la buttiamo in cacciara, certo è così, ma non è esattamente quello, perché gli studi che sono stati fatti, tutte le città che l'hanno, sì, che l'hanno applicato, hanno visto che non è vero che poi la gente lo prende così tanto per prenderlo, lo prende per andare dove deve andare. Nessuno di noi fa il giro della città perché non ha niente da fare. Ci sarà una percentuale minima di gente, di persone che lo può fare, va bene, ma non è quello il problema, credo. Il problema è il pendolare, il problema è la persona che decide di usare il mezzo privato o il mezzo pubblico in base a, sì, a dei ragionamenti che spesso e volentieri sono istantanei, non sono ragionati. Paolo, già che ti abbiamo in collegamento, visto che incidentalmente ci hai chiamato, a parte ricordare la notizia che Tallinn, la capitale dell'Estonia che applica questa misura, ha ricevuto da poco il Transport Ticketing and Passenger Information Global Awards, spero di aver pronunciato bene in inglese, cioè un premio, appunto, un riconoscimento internazionale. Proprio la risata spiega tutto, sì, direi. Esatto. Una cosa, ma direi anch'io. Se posso, sì, darvi una piccola notizia nel nostro piccolo, sì, no, mondo. Però scusa, la domanda è questa: in quali altre città, se ne sei a conoscenza, in Europa si applica felicemente con riduzioni, allora, dello smog questa cosa? Per 15 anni è stato fatto ad Asset in Belgio, che è una città di 70.000 abitanti, mm-hmm, che ha risolto dei problemi enormi di traffico. Molte città polacche lo stanno facendo con dei risultati eccezionali. Zori, una che ha a 60.000 abitanti anche questa, in Svezia un paio di città lo stanno facendo, la comunità di Obagne che è vicino a Marsiglia, 150.000 abitanti, l'ha fatto per 5 anni. Poi è chiaro, è una scelta politica. Ma qual è la controindicazione? Qual è la controindicazione? La controindicazione, ma sostanzialmente parlare alla pancia della gente e dire dobbiamo far pagare i portieri, quelli che non pagano il biglietto, i portoghesi. Non volevo usare il termine per evitare, ma no. Sì, ma noi siamo amici degli abitanti di questa splendida nazione che è il Portogallo. Ha proprio l'incipit il si può fare. Quando io sono andato a Tallinn la prima volta nel novembre del 2012 per ascoltare quello, sì, che stavano facendo, loro dicevano semplicemente just do it, non è un problema, fatelo perché si può fare. Bisogna vedere se serve a qualcosa, Paolo. In Italia avevamo citato noi il caso, e ne avevamo intervistato anche il sindaco di Settimo Torinese, una città alle porte appunto di Torino, che applicava in parte i mezzi pubblici di superficie gratis. Sarebbe interessante andarlo a intervistare per sapere come è andata a finire. Ho già detto che andremo a Tallinn tra poco per vedere, per sentire dalla viva voce di chi ci vive come funziona lì la questione. Grazie mille, Paolo. Grazie. Insomma, noi ci siamo. Richiamaci. Perché ci deve richiamare? No, perché dopo parliamo di Tallinn e magari nascono delle nuove questioni. Elementi sui... di discussione. Esattamente. Benissimo. E questa è Lady Gaga, cari ascoltatori, vi rinnovo l'invito ad andare sulla pagina di Si Può Fare sul sito di Radio 24, perché c'è la nostra playlist con tutte le scelte musicali, potete anche commentare e dirci se vi piacciono queste scelte musicali, se le apprezzate oppure se invece non le apprezzate, non vorreste per niente musica, questa comunque è una radio, resta Radio 24, una radio di parola. Di parola fondamentalmente, quindi il nostro così è un po' un azzardo se volete. Buongiorno, è un piacere averla con noi, a Veronica Pivetti. Buongiorno, buongiorno. Eccola. A tutti, ciao. Buongiorno. Allora, io apprezzo molto le radio di parola. Grandissimo. Apprezzo molto le radio di parola. Se volete togliere Lady Gaga potete farlo. Abbiamo capito che però capito, non piace Lady Gaga. No, vabbè, insomma, no, mi piace molto e mi diverte molto vederla. Poi sì, mi annoio a morte con la sua musica, ma questo è perché io sono anziana, io sono molto anziana. Anche noi, anche io sono un po' anziano da questo punto di vista. La Tunsa non mi piace. Abbiamo già lo scoop, un attacco frontale a Lady Gaga da parte di Veronica Pivetti. No, non sia mai, no, per carità. Adesso creiamo uno scontro diplomatico non voluto. No, no, ma mai e poi mai, anzi, io mi godo molto i video abbassando la musica. Come faceva mia nonna? Come giusto, mia stai nonna, peggiorando guarda la tua situazione. No, invece, secondo me ha detto una cosa intelligentissima. Lady Gaga è meglio da vedere forse che da ascoltare, assolutamente. No, è proprio, è che io sono ancora, io sai, io amo Sergio Endrigo, quindi figurati. Ah, vabbè, così hai aperto, hai sfondato una porta per quanto mi riguarda. Quindi guardi i video di Lady Gaga ma ascoltando Mina. Ma ascoltando anche Gabriella Ferri, però certo non vabbè, citazione musicale straordinaria Veronica Pivetti, io sto lì, insomma, io sono ferma a tutta quella roba lì, quindi figurati. Ripeto, compio 51 anni il 19 febbraio, anzi fatemi gli auguri. Ma in anticipo no, diciamo, ci dobbiamo risentire, ci risentiamo a fine febbraio. Perfetto, ottimo, ottimo. Allora, Veronica Pivetti in teatro con Lady Mortaccia, che non è Lady Gaga, esatto, siamo quasi in tema. È la sorella meno carina, possiamo dirlo, o è offensivo? Esatto, sono d'accordo. Meno carina perché Mortaccia in realtà ha a che fare proprio col tema della morte, uno spettacolo ironico di Veronica Pivetti, che tra l'altro stasera, posso dirlo, credo, sarai al Teatro Superga, Nichelino? Dirlo, così, che... ecco, diciamo, no, Nicolino in provincia di Torino. Esatto. Veronica, che è stata testimonial invece di una campagna importante, Mai più spose bambine, di Amnesty International. Mi sono impappinato su Amnesty perché con lei vogliamo commentare questa che è una grandissima notizia di questa settimana, una buona notizia che viene dallo Zimbabwe, che con una sentenza della Corte Costituzionale ha sancito, diciamo, lo stop ai matrimoni tra minori di 18 anni, e soprattutto il fenomeno delle spose bambine nel mondo sono 700 milioni. Sì, sì, no, ma infatti io ho aderito immediatamente a questa campagna di Amnesty. Il mio incontro con Amnesty, tra l'altro, è arrivato perché ha dato il patrocinio al film che io ho fatto come regista, il mio primo film. Oltretutto è stata una cosa curiosa perché di solito, insomma, il patrocinio di Amnesty è sempre legato a eventi, ahimè, ovviamente tragici, drammatici. Sì. Io ho fatto una commedia, ma siccome la commedia parlava dell'omosessualità e dell'omofobia, loro l'hanno vista e l'hanno voluta patrocinare. È la prima volta, tra l'altro, che Amnesty patrocina una commedia. Per né cui... Giulietta né Romeo, di questo stiamo. Ah, bravo, ammazza quanto siete preparati. Poi sull'omofobia qua sfondi una porta aperta, quindi ci mancherebbe. Carlo Gabardini, allora... che è testimonia di qualunque gay pride degli ultimi tre anni. No, per cui quando mi hanno chiesto se volevo aderire, ovviamente ho detto sì, perché quel fenomeno, non so, fenomeno tragico e drammatico delle spose bambine è qualcosa di impensabile, cioè veramente. Poi ci sono delle cifre spaventose. Facciamo una piccola pausa per il traffico, Veronica, se puoi rimanere con noi ancora qualche minuto, e così cerchiamo anche di capire un po' meglio di cosa si tratta, una cosa di cui magari non si parla, i giornali non parlano, una cosa che sembrava dimenticata. Invece nel mondo sono 700 milioni di spose bambine e ci sono 250 milioni di adolescenti che hanno contratto il matrimonio prima di 15 anni. Ci fermiamo per il traffico, torniamo tra un secondo con Veronica Pivetti. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, come detto, insomma, la notizia, un sollievo che arriva dallo Zimbabwe. Veronica, finalmente un paese, uno fra i tanti, che però ha detto stop a questa pratica terribile che riguarda i minori, anche i ragazzi. Però perché colpisce soprattutto di più le bambine? Perché le donne sono sempre, scusate, adesso non vorrei essere di parte, ma ovviamente lo sono, perché le donne sono sempre colpite, ma ahimè anche in questo paese, in modo ovviamente differente, in modo in teoria meno eclatante, perché è chiaro che fa sposare una bambina a 12-13 anni, ci sono anche bambine che si sposano a 8 anni, cioè io proprio parlando con Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia, ho saputo delle cose spaventose, ma di età di questo livello, bambine che poi tra l'altro appunto rimangono incinte non potendoselo permettere perché il fisico non può e quindi spesso muoiono, perché poi c'è questo problema che sono proprio piccole, non possono, non potrebbero mai sostenere una gravidanza, cioè, insomma sono fenomeni molto assolutamente tragici che per fortuna si riescono, almeno in certi paesi si sono riusciti ad arginare. Ma poi soprattutto Anne si può essere orgogliosa, perché evidentemente come sempre Anne si fa un lavoro certosino e di una tenacia strepitosa, per cui poi qualcosa succede, ecco, loro devono essere veramente orgogliosi del lavoro che fanno, che è sempre a contatto con tragedie, con ingiustizie, come minimo con ingiustizie. E soprattutto è un numero incredibile, nel senso che si parla di 700 milioni, che è un, non so come dire, dovrebbe essere il primo problema di cui ci occupiamo. 700 milioni vuol dire il 10% della popolazione mondiale, cioè una persona su 10 è una sposa bambina. Però vedi, la cosa giusta che avete detto è che questo è un fenomeno di cui in realtà nessuno sa niente. Ma perché? Ma perché ci sono talmente tanti problemi, talmente tante, non te ne occupi. E poi insisto, perché delle donne ci si occupa diversamente. Ci si occupa poco delle donne, ma ci si occupa poco soprattutto dei paesi in via di sviluppo, perché acchiappa. Sicuramente è un tema difficile, faticoso, però una notizia così bella volevamo assolutamente, certo. Speriamo poi che venga applicata, perché non è detto che una sentenza, tra l'altro, diciamo, della Corte Costituzionale poi diventi di fatto operativa. Poi il percorso è lungo comunque, però è già un questo almeno è già un passo. Sì, quando mi hanno detto i numeri ho capito che, insomma, a parte che è ovvio, non c'è bisogno di avere i numeri sotto mano per capire che è giusto aderire a una battaglia del genere. Però è veramente un sommerso incredibile. No, sarebbe giusto anche se fossero 7 milioni, ci mancherebbe altro. Solo che fossero 7, guarda. Esatto, solo che scoprire che sono 700 milioni è più che disarmante. E adesso non mi ricordo il numero, tipo ogni tot secondi, cioè siamo a quei primati spaventosi lì. Sì. E poi questa sentenza in realtà dello Zimbabwe, devo dire, adesso non vorrei dire una castroneria, ma sembra quasi fin troppo restrittiva, nel senso che dice adesso all'improvviso, fino a ieri si sposavano spose bambine, e adesso invece il limite è stato messo a 18 anni di età, senza... Lo so, sì, però guarda, è vero, è molto strano, ma prendiamola, va benissimo. Ma certo, no, volevo capire appunto se era stata una battaglia che era stata fatta, diciamo, con vari step fino ad arrivare ai 18 anni, perché credo che anche in Italia probabilmente 18, ma con il consenso dei genitori ci si può sposare anche prima. Ah, ecco, questo io non lo so, io guarda sono anche proprio... ormai sono così lontana dei 18 anni non lo so, però... Hai trovato un'ottima uscita, direi. è purtroppo molto vera. Allora, insomma, sono contenta che abbiamo parlato di questo, sì. Perché veramente mette un faro su un argomento mai... ma ti dirò che anche quando mi ha chiamato Riccardo me l'ha chiesto se volevo aderire a questa campagna, neanch'io ci pensavo, cioè so che esiste questa... poi sai, ho anche visto le foto di questi matrimoni, di questi uomini baffuti, grandi, con queste faccine di fianco che non vi potete immaginare, cioè sì, vi potete benissimo immaginare, proprio delle bambine con degli occhi affranti, tristi, proprio sai, oggetti messi di fianco, insomma, una cosa che urla veramente vendetta, un fenomeno. Fatemi ancora leggere un dato, quello delle spose bambine, che in Zimbabwe tocca il 30% delle minori. Insomma, adesso per fare una cosa del genere bisognerà commettere un atto illegale, quindi insomma è già un passo in avanti. Veronica Pivetti, del film abbiamo detto, né Giulietta né Romeo, della campagna abbiamo parlato perché era di questo che volevamo parlare, però stasera lo spettacolo Lady Mortacci, uno spettacolo sulla morte affrontato naturalmente con ironia. Per quali percorsi sei arrivata a una scelta come questa, coraggiosa? Per i miei percorsi mentali ben strani e anche per i percorsi mentali dell'autrice, che è Giovanna Gra, che è una persona con la quale io lavoro moltissimo, abbiamo lavorato nella fiction, è l'autrice della sceneggiatura del film, di un altro spettacolo che avevo fatto, perché ma forse per affrontare l'ultimo tabù che si fa sempre fatica ad affrontare, ma sai, poi già il titolo Lady Mortacce ti fa capire che questo spettacolo è uno sberleffo nei confronti della morte. È uno spettacolo musicale con un testo originale e musiche originali che stiamo portando in giro per il terzo anno, quindi insomma vuol dire che questa cosa funziona e che il pubblico si diverte. Ma guarda, mica solo si ride, in realtà poi ci si commuove anche. Diciamo che si passa un po' lo scibile che è il massimo, no? Quando uno al teatro si commuove e ride, cosa c'è di più? Io lo amo molto, ovviamente, perché vabbè, è veramente un esperimento, però possiamo dire un esperimento riuscito, per cui se venite a Nichelino io sono contento. Anche perché, ricordiamolo, la morte forse è uno dei veri tabù di questa società, dei quali veramente non si può parlare. Sì, esatto, esatto. Quindi abbiamo pensato, visto che non se ne può parlare, abbiamo pensato di cantarla. Giustissimo. Noi siamo sempre molto contenti di parlare, tra l'altro, di spettacoli teatrali. Il teatro è un momento di vita fondamentale per tutti. Teatro di cui si parla a volte in crisi, non in crisi. Qual è il tuo personale termometro? Che non è che in crisi di più, e per questo dico fate bene a parlarne, perché è veramente un momento difficile, naturalmente per motivi economici, ma chiaramente molto anche per motivi culturali, perché poi c'è un arrembaggio alle cose più semplici, questo anche da parte, io questa è la classica nota polemica, già che ci sono metto, perché tante volte tu proponi, io sto portando in giro questo spettacolo da tanto tempo, ma non crediate che non faccia fatica a riuscire a venderlo, nel senso che devi convincere, ti gestisci altri, che sì, è vero, è una cosa nuova, sì, è vero, è musicale, sì, è vero, parla della morte, però è una cosa valida. E poi infatti i risultati sono, però cavolo, era pieno, la gente è stata bene, si è divertita. Ecco, appunto, ci vorrebbe, secondo me, un po' più di coraggio. Guarda, il coraggio serve sempre nella vita. Altro che. Condivido in pieno. Se possiamo chiudere con una buona notizia di cui parleremo domani, che riguarda il teatro. Parleremo nella puntata di domani, 8.30, 10, si può fare su Radio 24. A Milano, il piccolo teatro di Milano ha battuto con i biglietti venduti gli abbonamenti dell'Inter e del Milan, e questo diciamo non è un... ci passo che questa sì. È la notizia pazzesca, allora bisogna crederci, bisogna crederci, ci vuole fiducia, perché milanese, poi quindi poi piccolo teatro è un tale monumento nazionale, è veramente un bene dell'umanità, attenzione, perché è stato un momento culturale quello del piccolo teatro, eccezionale per Milano. Che bella notizia che vedi, vedi, grazie a voi che lo fate, il teatro vive, sopravvive e in qualche caso anche rinasce. Grazie mille, Veronica. È una mattina di belle notizie. Noi ci proviamo tutti i weekend. Grazie mille. Ciao. Buona ciao. Giornata. Ce jeu du mâle et de la femelle. Du mâle et de la femelle. On était tellement complices, on a brisé nos complexes. Pour te faire comprendre, t'avais juste à lever le cil. T'avais juste à lever le cil. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières, afin de te voir même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil. Questa è Si può fare, questa che abbiamo appena sentito è Maître Jim, lo pronuncio sicuramente sbagliato. Vi ricordiamo, è una canzone che ci è stata consigliata e segnalata da Alberto da Lecce. Vi ricordiamo che noi cerchiamo sempre dei Si può fare in musica. Esche tu mem, in questo caso, e qui il francese esche posso andare mem. Tranquillo, perché lo so. Giustamente, giustamente il titolo della canzone, io avevo detto solamente il nome del gruppo perché già mi sembrava troppo difficile il titolo della canzone. Però noi cerchiamo sempre dei Si può fare in musica, quindi sia che voi siate dei musicisti, dei compositori o anche semplicemente degli ascoltatori di musica, segnalateci le vostre canzoni, quelle dentro le quali scovate o pensate di aver scovato un si può fare. Lo potete fare ovviamente sui nostri account social, quindi su Facebook si può fare trattino Radio 24, oppure sul nostro account di Twitter che è chiocciola si può fare 24, oppure sui nostri account personali, il mio è chiocciola Carlo Gabardini e poi c'è anche il mio chiocciola Ale Maurizi. Chissà se sarebbe piaciuta questa Esquitiu Mem a Veronica Pivetti, una canzone francese un po' vintage, quindi poteva intrigare anche lei che ama Gabriella Ferri e Sergio Endrigo. All'800 24 00 24, cari ascoltatori, aspettiamo il vostro parere anche su la storia che vi abbiamo raccontato, provenire da Bologna, vigili urbani a pagamento per gli eventi come concerti, avvenimenti sportivi, riprese televisive. Gli organizzatori di questi eventi dovranno pagare il servizio del controllo stradale, pagarlo di tasca loro, e quindi insomma la domanda è se si tratta di una tassa occulta in più oppure di un giusto servizio offerto a pagamento da parte dei comuni alle prese sempre con i bilanci precari delle finanze locali. Giancarlo da Roma, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. No, io volevo sottolineare che con il servizio tasse e tributi noi paghiamo la manutenzione e i servizi ordinari delle forze dell'ordine, per cui tutti quelli che sono servizi straordinari, appunto grosse manifestazioni, eventi sportivi particolarmente significativi, sono delle spese aggiuntive che non devono gravare sull'intera cittadinanza, ma devono gravare esclusivamente sui fruitori di quel servizio. Non per niente, per definizione, la tassa è, diciamo, la contropartita di un servizio reso. Per cui se io vado a un grosso spettacolo, questo grosso spettacolo coinvolge forze dell'ordine e forze di sorveglianza, me le pago. Adesso che poi questo sia a carico dell'utente finale o sia a carico degli organizzatori, credo che non sia rilevante. No, la vera cosa da chiedersi è quando diventa compreso nei soldi che noi già paghiamo. Per esempio, per molte manifestazioni si paga l'affitto del cosiddetto suolo pubblico, se nell'affitto del suolo pubblico non sia già compreso anche il servizio di vigilanza dei vigili, oppure se uno paga e poi ogni volta che deve, ha bisogno di qualcosa deve pagare in aggiunta. Era questa la domanda. No, scusi, l'affitto del terreno è una cosa a parte, sono due partite, prendiamoci in termini contabili, sono due partite completamente diverse. Io affitto un terreno, poi la prestazione che richiede l'intervento delle forze dell'ordine me la pago a parte. Non credo che si possa assimilare l'uno all'altro, che ne pensate? Beh, dipende, per qualunque cosa. Lei dice che se dei ragazzi fanno un piccolo concertino in una piazza devono pagarsi anche i vigili? Concertino della piazza, lei capisce, non richiede una presentazione, un intervento di grosse forze della città. No, non di grosse, però dipende, magari se uno ha 600 spettatori, due vigili serve che ci siano per controllare che non succeda niente di male. Appunto, ma due vigili, diciamo, l'onere di due vigili non è l'onere, per esempio, delle forze di polizia statale e municipale che vengono mobilitate per esempio con una partita tipo Roma-Napoli. Ma credo, è evidente, infatti, siamo molto contenti. Credo anch'io con Giancarlo che il problema possa essere questo, cioè più è grande l'evento e più il problema si pone. Esatto, solo che siccome parlavamo appunto con l'assessore, in realtà proprio nella questione dello stadio non c'è ancora un accordo, quindi non si capisce sulla questione dello stadio, mentre c'è la certezza che sia per altro tipo di eventi, noi ci chiedevamo esattamente questo. Non è forse più giusto far pagare i vigili nel momento che c'è una grossa manifestazione, ovvero una partita di calcio di Serie A o il concerto di Vasco Rossi, e invece non far pagare i cittadini nel caso di piccole manifestazioni? Ma su questo posso essere perfettamente d'accordo. Bene, benissimo. Su questo accordo, ottimo, tra Giancarlo e Carlo, ci salutiamo qua. Grazie. Buona giornata. Buon sabato. Dante da Monza, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, prego. Io ho ascoltato l'intervento della Pivetti sulle spose bambine. Sì. Sì. Una bella azione fatta dallo Zimbabwe. Sì. Comunque ricordo in Iran, con l'avvento dello Stato Islamico, sì, hanno abbassato l'età da 18 a 12 anni. Ah. E poi ci permettiamo di coprire le statue. Ha ragione, sono d'accordo con lei, Dante. Era tutto qui quello che voleva dire? Tutto questo. Va bene. Beh, grazie. Mi sembra un ragionamento preciso, in effetti. Se da un lato si alza a 18 non e dall'altro l'ISIS abbassa a 12, questo è un problema gigantesco. Non fa una piega. Noi abbiamo dato notizia della sentenza della Corte Costituzionale in Zimbabwe, una buona notizia, probabilmente una goccia in un oceano, ma insomma ci piaceva sottolineare come che lentamente però dei passi in avanti si fanno. Ed è stata con noi Veronica Pivetti, che è stata testimonial di una campagna di Amnesty su, contro le spose bambine. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo. 800 24 00 24, andiamo a Tallinn. Si può fare. Cronache da un paese migliore. To Ride dei Beatles. Ancora vi rinnovo la nostra proposta di andare sul sito di Radio 24, la pagina Si può fare, trovate tutte le nostre scelte musicali, le playlist, che sono sia delle proposte musicali ma anche delle proposte così, diciamo, di riflessione. Parliamo proprio dei biglietti per i viaggi sui mezzi pubblici, perché arriva la proposta di Francesca Balzani, candidata alle primarie di centrosinistra a Milano. Per la proposta è questa: mezzi pubblici di superficie gratis per tutti qualora lei diventasse sindaco. Una proposta, ha detto, non ho ancora studiato i numeri, bla bla bla. Molti dicono bella idea, la legalizzazione in qualche modo dei portoghesi, cioè non si paga più il biglietto, liberi tutti. Naturalmente l'intenzione è quella di incentivare l'uso dei mezzi pubblici e quindi di, diciamo, diminuire anche le emissioni di smog. Altri dicono costerebbe troppo e non è detto che incentiverebbe abbastanza l'uso dei mezzi pubblici. L'esempio è quello dei ricchi abitanti del centro che non li usano e non li userebbero nemmeno se fossero gratis, forse, perché non li usano per motivi loro. Andiamo a Tallinn per conoscere come si vive in questa città nella quale la cosa succede già da anni. Buongiorno a Giuseppe Bassi, che è un italiano che vive a Tallinn. Ciao Giuseppe. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Vive a Tallinn da quanto tempo? Sono 2 anni e mezzo che vivo a Tallinn. 2 anni e mezzo che vivo a Tallinn. E da quanto tempo invece sei il titolare dell'unica caffetteria italiana della città? Io e Daniele abbiamo aperto la caffetteria 1 anno e 10 mesi fa. Ok, quindi, quasi quindi subito, siete arrivati e avete aperto la caffetteria. La caffetteria Cremeria a Tallinn, complimenti. Grazie. Così. Complimenti si fanno, c'erano i saldi dei complimenti. Beh, insomma, fa sempre piacere quando un italiano apre una cremeria, volevi dire? Perché no? certo, l'unica certo. Cremeria italiana, caffetteria italiana a Tallinn. Tallinn, capitale dell'Estonia, 440.000 abitanti. Quindi, insomma, parliamo, facendo un paragone, potrebbe somigliare a Bologna come dimensioni. Che dici, Giuseppe? Sì, centro storico medievale, diciamo, non è comparabile a Bologna, però insomma per essere nel nord Europa sì. Ci sono diversi palazzi storici. Tu venivi da Piacenza, se ho ricordato esatto, bene. Esatto, da Piacenza. Sei una specie di mollo tutto e me ne vado, perché lavoravi in finanza, cosa facevi prima? Sì, io sono stato pendolare a Milano sì? Dal 2001 al 2013. Ma prima da Piacenza? Non da Tallinn. E poi sì. All'Intesa San Paolo, in Piazza della Scala. Ah, in supercentro. E usavi i mezzi pubblici allora? Li ho usati tutti. dalle ferrovie regionali a interregionali. Beh, poi se facevi il pendolare sicuramente ne hai fatto una bella collezione. Ma la domanda vera è questa: tu usi i mezzi pubblici a Tallinn e prima non li usavi? No, prima tu non c'eri quando prima si pagavano. Tu sei arrivato e li hai già trovati gratis. Sì, sì, esattamente. Sono gratis dal 1 gennaio 2013. Esatto. Quindi sì? Qui è la sperimentazione ormai verso il terzo anno. Una sperimentazione collaudata in qualche modo, o no? Sì, perché ogni mese ci sono novità e quindi loro continuano a... siamo veramente un centro di sperimentazione, sì, delle tecnologie, dei movimenti e anche dei parcheggi, insomma, è tutto un sistema integrato. Sì. E le persone sono contente? Cosa dicono di questa questione dei mezzi pubblici gratuiti? Se ne parla nei bar, nelle cremerie? Sono estremamente contenti, soprattutto diciamo quelle fasce che di solito non possono permettersi l'automobile, quindi ora hanno disponibilità di un servizio pubblico gratuito, comunque dalle 5 alle 6 di mattina fino a mezzanotte, mezzanotte e mezza. È un bel servizio di tram, di trolleybus, di bus. Come si chiamano trolleybus? Sono abbastanza moderni. Che cosa sono questi trolleybus? E in pratica diciamo sono quelle linee a più lunga percorrenza che sono dei bus elettrificati, insomma. Ah, certo. Quelli coi fili, sono attaccati ai fili in pratica, no? Esatto. Ovviamente all'interno della città non si paga nessun mezzo pubblico, invece se si piglia un treno per andare nel paese di fianco, quello lo si paga, giusto? Una delle ultime novità è che la parte di percorso che il treno fa nella zona cittadina è gratuita anche quella. Non si paga niente a Tallinn. Sono scatenati, siete scatenati lì a Tallinn. Sì, diciamo, la città di Tallinn stava perdendo abitanti e con questa proposta hanno recuperato 15.000 residenti. Infatti qualcuno ha voluto dire che questa iniziativa, questa proposta che è stata fatta a Tallinn, non è un caso che è stata fatta lì, nasceva proprio dall'esigenza di ripopolare un po' una città che andava perdendo abitanti, e quindi come mossa di marketing, mossa di attrattiva anche nei confronti, credo, delle periferie o di altre città, poteva diventare interessante, insomma, andare a abitare una città dove c'era il vantaggio competitivo di non pagare bus e tram o filobus. Però poi sono arrivati anche dei dati, perché inizialmente uno dei primi bilanci sembrava dire che il numero di persone che ricorrevano di più agli autobus fosse aumentato, ma di poco, del 3%, quindi diciamo un risultato non molto soddisfacente. Poi sembra che le cose siano migliorate. Adesso ce lo confermi, Giuseppe? C'è un maggiore ricorso? Diciamo, ecco, le statistiche vanno anche prese con un piccolo beneficio di inventario, perché adesso tutti hanno una tessera magnetica verde che tra virgolette va obliterata con un termine preistorico per quanto riguarda l'Estonia, cioè va avvicinata alla centralina, però non essendo più una multa connessa al mancato la mancata attivazione della tessera, diciamo, possono, si dimenticano anche di segnalare la loro presenza sul mezzo pubblico, però posso garantire che sono tutti belli pieni i mezzi pubblici, non è che... Questa è una bella notizia, perché è vero, come diceva prima anche Paolo, l'esponente della rete italiana, che diciamo della rete internazionale in Italia per i mezzi pubblici gratis, vedere circolare gli autobus vuoti è comunque un insuccesso, questo sicuramente sì. Tornando ai dati, c'è stato, si certifica nella seconda fase, un aumento dei flussi di passeggeri su bus e tram di circa il 20%, le emissioni di CO2 sarebbero diminuite, tant'è vero che Tallinn ha vinto, lo ricordo ancora, questo premio, il Transport Ticketing and Passenger Information Global Awards, che è stato dato a Londra pochi giorni fa, il 26-27 gennaio, quindi diciamo anche le emissioni di smog sono diminuite. Avete problemi di smog adesso lì a Tallinn o no? Ma Tallinn ha il vantaggio di essere una città di mare, sempre ventilata, e quindi i problemi non anche ci piove, sono. Quindi, beati voi. L'aria si cambia spesso, sì. Però diciamo si vede perché diciamo quando c'è quando c'è molto traffico in 5 minuti finisce, ecco. Senti, l'altra domanda che tutti si fanno è: quale altra tassa è potuta aumentare tantissimo per compensare questi mezzi pubblici gratis? Avete visto aumentare qualche tassa locale, la tassa dei rifiuti, la tassa sulla casa, qualche cosa che possa giustificare questa compensazione o no? Allora, i parcheggi proprio nella città medievale costano quasi 5 euro all'ora. Nella Cipicchia? Zona semicentrale è 3 euro all'ora, quindi diciamo i parcheggi, cioè ovviamente i possessori di auto adesso pagano parzialmente la differenza di, cioè ora hanno la, cioè quelli ostinati automobilisti gratis che vogliono continuare ad utilizzare l'auto se lo ricordano al momento del parcheggio, perché 5 euro l'ora è un è difficile da dimenticarselo. Esatto, per tutta la vita. È la principale lamentela, cioè chi vuole appunto avere l'auto poi il parcheggio lo paga carissimo. Tu ce l'hai l'auto, Giuseppe, una domanda? No, io l'ho venduta in Italia e non ho più necessità di averla. Ma che in realtà ci sta come ragionamento, nel senso che io come città ti metto a disposizione mezzi pubblici gratuiti dove tu non devi fare niente, semplicemente quando vuoi puoi salire su qualunque mezzo e poi invece se vuoi continuare a usare la macchina e inquinare l'interno della città paghi, perché evidentemente te lo puoi permettere e un sacco di altri motivi, o sbaglio? No, poi anche l'aeroporto, il porto sono continuamente collegati, quindi non è che devo, cioè anche per il, ma anche le città vicine, se volessi, ci sarebbe comunque un treno per arrivarci. È tutto abbastanza connesso, non ci sono lunghe attese o interruzioni. Bene, dei bene. Caro Giuseppe Bassi, titolare della caffetteria Cremeria a Tallinn, grazie ancora per essere stato con noi. Grazie a voi e buona giornata. Grazie mille, se passiamo da Tallinn veniamo in Cremeria. Assolutamente sì, a berci un caffè italiano. Non gli abbiamo chiesto se faceva il caffè spesso, però penso di sì. Immagino di sì, la Cremeria italiana. Accidenti. La caffetteria italiana, chiedo scusa. Questa è la situazione a Tallinn, città capitale dell'Estonia, 440.000 abitanti, che ha deciso 3 anni fa, Orsono, di offrire i mezzi pubblici gratis a tutti i suoi abitanti. Proposta che è stata lanciata da Francesca Balzani, candidata alle primarie centrosinistra a Milano. Domani faremo un piccolo ritorno su questo argomento della mobilità, perché parleremo di un'iniziativa che c'è in Toscana dove stanno raccogliendo delle idee originali, creative, sul trasporto locale. Vedo che sta invogliando le persone a svegliarsi molto presto domattina. 8:30-10, come si può fare? Ma la puntata non è ancora finita, restate con noi, traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Cari ascoltatori, eccoci qua di nuovo. Buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini. Allora, l'evento, ve lo dico, ve lo anticipo. Dai, vediamo questa così pillola di saggezza. Anche perché può essere interessante per chi sta in Toscana andarci a fare un salto tra Firenze ed Arezzo. L'iniziativa si chiama Hack Toscana Mobilità 24 ore per inventare il futuro dei trasporti toscani. Chissà che non ne vengono fuori delle belle idee. Li sentiremo domani al termine di questo hack. Ti sei sentito in colpa che avevi dato solamente un pezzo di notizia dicendo però se siete interessati ascoltateci domani, giustamente invece dici vabbè vi anticipo la notizia per intero. È giusto anche sostenere queste iniziative e magari mandarci un po' di pubblico. Firenze e Arezzo sono le due città nelle quali si discuterà di questo. Luciano da Milano, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno. Buongiorno. Volevo ricollegare al discorso del servizio dei vigili. Sì. Sì. Se uno fa il concesso di Vasco Rossi e usufruisce di un servizio pubblico dei vigili, è giusto che paghi. Ma oggi che c'è il Family Day, chi è che lo paga il servizio? Questa è un'ottima domanda. Credo che al momento a Roma lo paghi il Comune di Roma. Al momento credo che Roma non abbia. Il Family Day non è organizzato dal Comune di Roma. No. È un movimento mezzo politico, mezzo morale, insomma quello che è, dovrebbero qualcuno dovrebbe pagare il servizio. Beh, io però se posso, scusi Luciano, poi la lascio finire. Io però mi sentirei di spezzare una lancia a favore delle manifestazioni pubbliche, dove si discute di idee, si fanno proposte, si manifesta per i diritti da una parte o dall'altra. Non farei pagare le tasse a queste associazioni che spesso non hanno neanche i soldi. Qui stiamo parlando di eventi che portano anche degli incassi, concerti, manifestazioni sportive, riprese televisive. Questo credo che sia per il momento nel mirino almeno del Comune di Bologna, per quello che abbiamo sentito stamattina dall'assessore. La domanda interessante, secondo me, su chi paga per il Family Day è proprio capire chi paga, nel senso che sul Family Day non si capisce se chi lo organizza, se sono semplicemente delle associazioni che vogliono bocciare e non far passare una legge, se invece c'è dentro anche la CEI o meno. Loro dicono di no, che l'appoggiano ma non l'appoggiano, però dicono di andare, però non si sa. Luciano, voleva concludere? Aggiungendo qualcosa. Sì. Sì. Che voglio dire, se uno fa una manifestazione e non paga, si giustifica anche la carica dei celerini. No, dovrebbe quasi essere, nel senso che è strano, perché uno non, se non paga c'ha la carica, se paga i celerini quindi non ha, è molto non difficile. Non fanno la carica, quindi sono belli tranquilli, hanno pagato, possono manifestare quello che vogliono. Ma il mio è un paradosso. Stavo entrando nel suo paradosso, ci mancherebbe altro. Infatti, Luciano, grazie per aver chiamato, però direi che le manifestazioni politiche stanno fuori dal discorso fatto almeno a Bologna, per quanto riguarda Bologna. Andiamo con Virginia, che chiama da Modena. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Buongiorno. Qua, Virginia. Su cosa voleva intervenire? Ecco, io sono una pensionata. Sì. Io ho 80 anni. Sì. E tutti gli anni faccio l'abbonamento all'autobus. Sì. L'anno scorso, cioè, guardavano sempre il reddito quando ci facevano pagare. L'anno scorso ho pagato 95 euro. Quest'anno me l'hanno chiesto 216. E la miseria. Ma che aumenta. Scusi. Hanno detto che non guardano più il reddito. Fa pagare tutti uguale. Ma è all'anno? Noi poveri pensionati? Niente. Sì. Ma stiamo parlando di un abbonamento annuale? Sì, credo di sì. Sì, sì, l'abbonamento annuale lo stavo rinnovare. Adesso è da rinnovare. Tra l'altro devo dire che insomma, alla faccia dell'aumento, perché da 95 euro a 216 euro non sono bravissimo a fare i conti, ma è un aumento di più del doppio. Sì, più del doppio di sicuro, perché il doppio sarebbe 190. Sì, cioè, è una cosa stratosferica. Quindi i limiti di reddito. Beh, perché già oggi in alcune città, per esempio Modena, ce lo conferma Virginia, fino a ieri però venivano tenute in considerazione i limiti di reddito, e io credo che sia una cosa giustissima e doverosissima. Soprattutto quando poi si sente che gli esperti che studiano dicono che l'introito dato dallo sbigliettamento è quasi ininfluente per l'azienda dei trasporti. E allora uno dice: ma se la signora Virginia ha delle difficoltà a pagare 200 euro e addirittura questi soldi non servono in realtà se non per il 4% della spesa dei trasporti, forse conviene mettere i mezzi pubblici gratuiti. A onor del vero, diciamo che per quanto riguarda Milano, che è la città che ha lanciato tramite Francesca Balzani questa proposta, già adesso credo gli ultra 65 anni hanno degli sconti, così come, anzi sicuramente gli ultra 65 anni hanno degli sconti, così come i minori di anni 10. Non so, per la questione del reddito che giustamente Virginia da Modena sollecitava. Allora noi diciamo agli amministratori di Modena: perché vi siete dimenticati di chiedere il reddito e volete aumentare quasi del triplo il costo per la signora Virginia, che come poco più del doppio, sennò poi dopo ci dicono che non sappiamo la matematica. Ma insomma, dai, Gianluca da Roma in 30 secondi, vai, però proprio 30. Molto veloce, buongiorno a tutti. Allora, io volevo sostanzialmente dire che la sostenibilità, questo è un progetto bellissimo dei mezzi gratuiti, però ovviamente Roma è una città un po' particolare, quindi già adesso soffre di sostenibilità e gli autobus sono pieni pur pagando il biglietto. Sì. E quindi andrebbe un penso po' anch'io che Roma, penso anch'io che Roma non è la città adatta dove fare una cosa del genere al momento, forse. Gianluca, grazie, dobbiamo stopparlo qua, non per altro perché siamo in chiusura, e quindi un ringraziamento ad Andrea Piana, naturalmente Claudia Schiattone, Peter Bescapè oggi in regia. Noi ci risentiamo domani 8:30-10 con Si può fare. Un abbraccio a tutti, anche a chi ci ascolta in podcast. Ciao da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Un abbraccio.